Continuiamo pure a parlare di salumi. In uno dei primi romanzi di James Cramley, un autore come non ignoreranno quei pochi insonni che ascoltano le mie recensioni gialle a Nocturnover, in uno dei primi romanzi di James Cramley, un autore per cui nutro un'ammirazione pressoché sconfinata, il protagonista un bel mattino si sveglia e scopre di non aver voglia di fare colazione. Ne ha ben donde, La sera prima si è ubriacato, ha ecceduto nell'uso di droghe leggere e come se non bastasse si è fatto prendere a cazzotti da certi antagonisti particolarmente violenti. È un duro, ma anche i duri in certe circostanze hanno il diritto di non sentirsi tanto bene e lui non ha voglia di fare colazione. L'odore di caffè gli fa schifo, il pantostato gli sembra un'entità minacciosa e la pancetta, il bacon, quella componente essenziale delle prime colazioni nei paesi di cultura anglosassoni, quella volta per lui sa di maiale morto. Al che il lettore, colpito dalla macabra icasticità della metafora, simpatizza subito con il poveretto e si augura che il mal di testa, hangover si dice in inglese, non date retta ai dizionari che consigliano di tradurlo con spranghetta, si augura che il mal di testa gli passi presto in modo da consentirgli di tornare a occuparsi quanto prima del caso appassionante di cui si sta occupando. Il bello è, come forse avete notato, che quella metafora, da un punto di vista strettamente merceologico, metaforica non è. La pancetta si fa con la carne di maiale e a tal fine è necessario che il maiale in questione sia stato macellato, cioè che sia morto. Poi certo il prodotto verrà variamente salato, affumicato, confezionato e cucinato, sì che alla fine non conserverà la minima parvenza cadaverica, ma che di maiale morto si tratti è indubitabile, che di maiale morto sappia è assolutamente normale. Solo che i consumatori ovviamente non ci pensano. Per loro la pancetta è una cosa, i maiali morti sono un'altra, e a meno che non si trovino in condizioni d'animo un po' particolari, come quello in cui si trovava l'ottimo Shugru con la spranghetta, e Shugru si chiamava quell'investigatore, si sforzano di non identificare l'una cosa con l'altra. Sono tutte reminiscenze letterarie che mi sono tornate alla mente l'altro giorno mentre osservavo una grande affiche pubblicitaria che rivestiva il retro di un autobus dietro al quale mi ero trovato bloccato nel traffico cittadino. È una pubblicità di una marca di salami naturali, perché oggi naturale lo si usa semplicemente per indicare eccellenza, non ha nulla a che fare con la natura e si può applicare benissimo un genere artificiale come il salame. Di salami naturali raffigurava un paio di allegri maialini con i loro bei codini a ricciolo scodinzolanti e inalberava lo slogan "maiali per caso, salami per scelta". Era tutto così carino, così allegro, che dopo 25 minuti di contemplazione forzata ho giurato solennemente di non toccare più una fetta di salame, almeno di quella marca. Vedete, per quel che mi riguarda, io di salami sono piuttosto ghiotto e anche di pancetta, ancorché vittima rassegnata dell'ideologia del colesterolo me li possa permettere assai di rado. Anche le bistecche di manzo non mi dispiacciono, e neanche il branzino al forno. Quest'ultimo, anzi, visto che i miei consulenti medici mi dicono che non fa poi così male, anzi, e mi offre la rara opportunità di ingozzarmi senza rimorsi di coscienza. Ma i rimorsi che proverei accostandomi ai cibi vietati dai medici, naturalmente, non sarebbero nulla paragonati a quelli che mi affliggerebbero se ogni volta che degusto un alimento d'origine animale, salsiccia toscana alla griglia o filetto di merluzzo a vapore, dovessi pensare alla sorte della povera bestia che per scelta non sua ha dato il suo contributo al mio pranzo. Chi mangia bistecche non pensa ai mattatoi. Chi si fa un panino al prosciutto è lontano le mille miglia dall'idea di una coscia di maiale cruda, chi degusta sereno un pesce al forno a basso contenuto di colesterolo non si rattrista più di tanto, pensando al povero animale che ruotava felice negli abissi cristallini del mare, è incappato nelle reti dei cattivi pescatori che lo hanno lasciato morire di lento soffocamento insieme a migliaia di sventurati confratelli. E non per ipocrisia o per insensibilità, badate, anche se i vegetariani più ideologizzati potrebbero rivolgergli entrambe le accuse, è solo che la nostra cultura che è una cultura di popoli che potendo hanno sempre mangiato la carne, si sono abituati a categorizzare la carne intesa come alimento in modo diverso dalla carne intesa come componente essenziale degli organismi senzienti. A sistemare gli spezzatini e le bistecche, che sono così saporite, in un raggruppamento mentale, diciamo così, diverso da quello in cui collochiamo i vitellini e gli agnellini, che sono tanto graziosi. Ed è ovvio pensarci bene. Noi vediamo il mondo attraverso le categorie mentali che ci formiamo e che la nostra cultura tramanda, e guai a confondere l'una con l'altra. Non possono nascerne che complicazioni, tra cui l'impossibilità di capirsi tra noi. Per esempio, può capitare di escogitare una pubblicità che può essere francamente controproducente, che ricorda al possibile consumatore quello che lui certamente non vorrebbe ricordare. Cioè che quei ghiotti salumi consistono in ultima analisi di carne cruda macinata di maiali morti insaccata nelle loro stesse budella. E figuratevi che quella marca di salumi si chiama Becker, che forse è un nome proprio e forse addirittura un richiamo, una grafia per il termine dialettale becché, che vuol dire macellaio, anzi beccaio, che come nome è ancora più controproducente, perché se dal macellaio ci si va tutto sommato in piena allegria, senza pensare ai macelli e alla macellazione, la parola beccaio ha un suono un po' più sinistro, direi. A me fa venire in mente quel famoso passo di Schopenhauer in cui noi esseri umani siamo paragonati a capretti che ruzzano nel prato sotto gli occhi attenti del beccaio, appunto, che ogni tanto ne sceglie uno. Beh, lasciamo perdere, buon appetito a tutti.